No, ecco, io quel tipo di cosa che fanno alla Zanzara non lo ritengo né giornalismo né satira, sinceramente. Lo ritengo proprio una cosa che non va fatta. Cos'è? Ma gli scherzi dei bambini che fanno... Cioè, sì, pronto? Cazzoni? Sono culone! La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Nanico, ecco, ti ho detto addio. Stasera è un anno che non bevo più. Cosa accade in Parlamento, caro David? Accade una cosa molto semplice: a un certo punto un deputato, non solo lui ovviamente, perde il controllo della situazione. Si può dire qualsiasi cosa, le cose che diresti anche al bar, le cose che dici qua sotto da prima noi di entrare. Sì, esattamente. Daniele Farina, sai chi è Daniele Farina? Come, un mio amico dei centri sociali, Leon Cavallo, fondatore di Leon Cavallo. Fondatore di Leon Cavallo. Brava oggi, persona. Beh, non lo so, adesso, brava persona. Oggi deputato di SEL. Sì, Sinistra Ecologia e Libertà. Ecologia e Libertà, il quale dice che dopo le 22 bisogna proibire la vendita di alcolici alla Camera. Ma proprio lui che è per la legalizzazione delle droghe, delle cose. Senti. Credo che dopo quello che abbiamo assistito, cui abbiamo assistito ieri sera fra le 23 e le 24, sarebbe utile che dopo le ore 22 la nostra buvette non vendesse più alcolici. Perché se è vero per il codice della strada questo, a maggior ragione dovrebbe valere per chi con il 51 o il 100% vorrebbe guidare il paese. E quindi ritengo che ai nostri questori questo problema vada posto, insomma. Dopo le ore 22 in Parlamento non si vendono più gli alcolici. Cioè, era ironico. Si dicono delle tali corbellerie. Ha ragione, dai, ha ragione. Che dopo le 22 bisogna proibire l'uso dell'alcol, l'uso, la vendita dell'alcol alla buvette. È una battuta. Figuraccia di Saverio Romano, ex ministro del centrodestra, berlusconiano di ferro, alla gabbia da paragone ieri sera. Non ho mai votato le riforme di Monti. Subito smentito. Lo scorso governo Monti, lo ha appoggiato? Io il governo Monti ho votato solo inizialmente il voto di fiducia, non ho più votato mai una legge né il voto di fiducia al governo. Dopo Monti. Me lo verificate, per piacere. E per delle ragioni che avete detto voi. Allora, abbiamo verificato il voto e le votazioni della scorsa legislatura del deputato Romano. Legge di stabilità 2013, favorevole. Trattato di istituzione del MES, favorevole. Trattato sul fiscal compact, favorevole. Integrazioni a Salva Italia e Salva Italia, favorevole. Pareggio di bilancio. A Romano! L'hanno tarato! Signor Paragone, l'ha messo in gabbia, signor Paragone! Amico mio Romano! Tanato! Amico mio! Tanato! Anche sulla presenza in Parlamento. Ma, Romano, ma uno non può andare in un posto e farsi fottere in questo modo, dai! Quando fate questa ricerca sulle presenze, dovreste calcolare anche il fatto che sulle presenze, ad esempio, ci sono le missioni, in ordine al fatto che io sono stato al governo per 50%, assenze 43-60, missioni 6,35. Sì, già ma in quale periodo? La scorsa legislatura. È impossibile, le spiego il perché. Perché io per circa 8 mesi sono stato ministro. E dovrebbero essere molte di più i dati ufficiali dal Parlamento. Dovrebbero essere molte di più le missioni. Ma queste sono sono i dati ufficiali che cioè non riesce nemmeno a uno, non c'è stato quasi mai in Parlamento nella scorsa legislatura, o poche volte. Era in missione. Oh, De Benedetti dice che Berlusconi e Cicchito piduisti non sono cambiati, signor De Benedetti. Mi sento ripetere oggi, dai piduisti al potere, da Berlusconi a Cicchito, non è cambiato nulla. Nell'86, con la candidatura di Enrico Manca, tessera 2148, a presidente della RAI, si torna alla normalità piduista. La P2 è ancora al potere, secondo De Benedetti. Ma il top è Buonanno, il nostro amico leghista, questa mattina. Ogni volta c'è. Com'era? Good ass. Good ass. Buonanno. Contro i Rom, questa mattina, sentite. Dove erano? A Milano. E pago io. Vedi per me. La invita a mettersi a un tavolo e discutere delle problematiche dei, poi dopo magari ci rubano il tavolo. No, io penso e si pensa, è un tavolo di valore, magari ce lo portano via. No, no, scusi, rido. Cizmic, non sarebbe da ridere, la battuta è bella ma terribile, onorevole Buonanno. Ma, no, ma quale terribile, vabbè. Stupenda, altro che terribile, è una battuta meravigliosa. Rubano anche il tavolo. Ragione Milan, era terribile mandare Equitalia nei campi Rom, sentite. E gli zingari, i Rom, come si vogliono chiamare dalle nostre parti, mi devono spiegare come fanno a vivere. Mandiamo a Equitalia nei loro campi, che hanno le belle macchine, hanno più oro di un gioielliere. Però questo è un luogo comune. No, non è un luogo comune, se tu ci vai capisci poi perché. I bambini li usano per andare a rubare perché tanto sono minorenni, oppure chiedono l'elemosina. Se vivono solo di elemosina, allora possiamo credere anche a Babbo Natale. Stasera è... Io non ce l'ho con loro. Dice che i Rom sono antropologicamente portati a rubare. Beh, antropologicamente non lo so perché non sono, tra virgolette, uno scienziato, ma posso dire che hanno nel DNA, certo, la frequenza alle ruberie e alle menzogne. Ma che c'è contro Gudè? Sul fatto che non sia uno scienziato non c'è dubbio, perché tante puttanate messe tutte in fila insieme era tanto che non le sentivo da signor Buonanno. Però . È vero che c'è un tasso di ruberie tra i Rom nettamente superiore al resto. Ma luoghi comuni, ma che luoghi comuni, la realtà. Luoghi comuni pazzeschi. Sei il solito politicamente corretto, ma è così. La maggior parte, molti di questi qua sono ladri. Che devi fare? Sono ladri. Come dire? È così, sono ladri. Ma è come dire che i genovesi rubano. Sono tutti tirchi, no, e come dire che ma dai, ma luoghi comuni, ma perché comuni, nel DNA rubano, però è vero che e rubano. E il dente d'oro e l'orologio Rolex. Ma allora non rubano, vabbè, d'accordo, qualcuno ruba, ma come rubano gli italiani? Cioè tu stai dicendo una cosa, i Rom rubano come gli italiani. Cioè i Rom rubano come gli italiani. No, benissimo. Giuseppe, ma il Parlamento è pieno di ladri. C'è gente, ci sono più ladri in Parlamento inquisiti, vabbè, che non tu stai dicendo. Cioè, se il Parlamento è lo specchio del paese, sì. Se il Parlamento è lo specchio del paese, andiamo a vedere quante persone, è dello specchio del paese, quindi va benissimo. Dunque? Andiamo a vedere quante persone sono indagate, andiamo a vedere quanti sono i Rom in Italia e scopriremo che sono molto di più i deputati indagati per corruzione che non i Rom. Ma Italia. E basta, chiusa la trasmissione. Voglio di Barisoni, Milan, Focus. Chiudi tutto, su questo chiudiamo e andiamo a casa. Scusate se vi ho disturbato. Ma perché? Cucù, poi ha sfasciato lo studio. Senti una cosa, no, ma questo è vero, però sui Rom adesso la gente si arrabbia. Ma quando mai? Fai il tu conto. Stai dicendo che i Rom quanti sono quelli italiani? Dai, quanti su. Sono i Rom in Italia? Quanti sono? La Zanzara 800 24 00 24. Voglio vivere in Uruguay dove c'è marijuana di Stato. Non perché io fumi, non ho mai fumato in vita mia. Marijuana di Stato, aborto e nozze gay. E il presidente vive con 1000 euro al mese in una modesta casa di periferia di Montevideo, dando tutto in beneficenza. Il presidente che si chiama Mujica. Marijuana di Stato, aborto e nozze gay. Uruguay. Uruguay. Uruguay. Cala. No, cala lei. Cala lei. È con noi il professor Gianni Vattimo, buonasera. Buonasera a voi. Professore, anche lei. Di nuovo con la Zanzara. Anche lei vuole vivere, professore, in Uruguay? No, però ammiro molto Mujica, c'è poco da dire. Beh, dai, altro dittatore, benissimo. Di fare la marijuana di Stato è fondamentale per stroncare il traffico clandestino. Oh, anche lei qualche volta se le fate le canne, professore? Sì. Certo. No, io mai, non ho mai fumato neanche. Come me, niente. Però la marijuana di Stato la farebbe, una bella. Vabbè, questo, no, la droga di Stato. No, per stroncare, andiamo su. Lei ha mai visto vendere whisky davanti alle scuole elementari? No, però marijuana o droga, sì. Perché? Perché? Il proibizionismo. Sì, no, ma io sono d'accordo con lei, ma come rispondo una porta aperta, guardi. Costerà $1 al grammo in Uruguay, $1 al grammo. Facciamolo anche in Italia, perché non si fa in Italia? Lo Stato vende la marijuana. Anche in Olanda si fa. Quant'è? Un euro, si può dire? No, un euro. 2 euro al grammo, facciamo 2 euro al grammo. Non so quant'è, tanto che io non la compro. Non so quanti grammi ci vogliono per una canna, ma insomma comunque dovrebbe essere un prezzo politico. Prezzo politico, prezzo sì. Prezzo di costo. Bene, come il 6 politico, com'era? Il 18 politico, che cos'era? Il 18. Lei che sa queste cose, un attimo, com'era? Vabbè, ho vissuto il 68, anche voi magari stavate dalla parte degli studenti. Allora, no, noi eravamo, guardi, nel 68 nascevamo. Non manco nati. No, lui non era manco nato, io ero nato da 2 anni, per cui eravamo. Caporelli, no vabbè. Siamo giovincelli, siamo innocenti. Siamo innocenti, assolutamente. Dunque non abbiamo passato quell'inferno lì, non veniamo da quella, per fortuna. Beh, inferno straordinario il 68. Ma che straordinario, ma quando mai. Comunque, senta, professore, ma è vero che lei stasera si reca presso la Val di Susa? No, presso, in Val di Susa, sto partendo adesso. Ma per fare cose a Val di Susa? Ah, ad aiutare gli amici a costruire il cantiere, bravo, sì, certo, questo è giusto. Io non so, io non ho mai costruito nessun cantiere. Va bene, no, vado lì perché c'è una riunione. Ma di chi? Scusi, però lei nei giorni scorsi ha fatto un po' l'elogio della violenza contro la TAV. Diciamo la verità, professor Batti, maestro, senza infingimenti, come no, senza infingimenti. Non ho detto le cose che ha avuto il coraggio di dire Harry Di Luca. Appunto. Io che... penso in silenzio, non lo dico. Che il sabotaggio è una cosa legittima. Ma entro certi limiti, ma ragazzi, se per caso Gandhi e 500 suoi adepti si creassero in mezzo alla strada in Val di Susa, cosa farebbe la polizia? Li sgombrerebbe accusandoli di interruzione pubblica. Ma Gandhi faceva i digiuni. Però scusi un attimo, Gandhi faceva i digiuni. Però scusi, professore. Fare? Solo scrivere delle lettere al direttore che poi non le pubblica per dire che la TAV è una porcata, dovete fare qualche dimostrazione. Cioè, si può anche distruggere un cantiere, secondo lei? Si può anche No, ma adesso non hanno distrutto un cantiere. Intanto bisogna vedere chi l'ha distrutto. Perché questo è un vero problema. Cioè? Secondo me, ma siccome. Ci sono degli infiltrati, secondo lei? Degli infiltrati? Nell'edilizia c'è praticamente soltanto. Criminalità organizzata, quasi, voglio dire, non intendo accusare tutti. Però lei dice che prima ci pensino, prima di dire che sono stati i TAV ci pensino. Cioè, ci possono essere degli infiltrati, secondo lei, che fanno queste cose? Ci possono essere delle provocazioni. Provocazioni. Su, in Italia, pezzi dello Stato anche, poliziotti stessi, no? Sì. Scusate, ragazzi, ma poliziotti anche. Le stragi di Stato, io non lo so dei poliziotti, non ne ho incontrato nessuno che facesse quello. Però andate a vedere tutte le bottiglie Molotov che c'erano a Genova alla Diaz, sì. Li avevano messi i poliziotti, questo è vero. Allora, se tanto mi dà tanto, per favore non rompeteci le scatole. Però scusi, professor Battimo, adesso, secondo lei è legittimo usare la violenza contro chi protegge il cantiere? Ma no, ma perché qualcuno ha fatto violenza? Ma come no? Qualcuno sì, ma c'è gente che porta le biglie, gente che porta le fionde, gente che porta le bottiglie, gente che porta le spranghe, gente che porta i caschi. Quei poliziotti gente, non sono 4 gatti che ogni tanto perdono la testa. E siccome il movimento anti-TAV non è assolutamente un partito organizzato, non c'è. Ma lei li ha paragonati a Gandhi. Ma certo, perché gran parte di loro sono pacifici, sono vecchiette con i nipotini. Ma non è vero. E quelli che vengono da fuori a fare casino, lei come li giudica? Quelli che vengono da fuori vengono probabilmente perché trovano qui l'unico punto di possibile resistenza sociale contro l'oppressione ormai diffusa. Ce li capisce. In Val di Susa voi a vedere tutta. Sì, io no, sono stato. Io no, perché io ce l'ho. Ma io sono stato in Val di Susa. Io certo. Non metto piede. Certo, lo credo. Ma per carità, io non metto piede. Io sono dalla parte dello Stato, della polizia e di chi protegge. Dello Stato e anche della polizia quando per caso non serve ad altri scopi ignobili dello Stato. E in quel caso a che cosa serve la polizia? Perché come spesso è servito la polizia a difendere gli interessi costituiti contro la gente che... Contro la gente, soffre. Interessi ignobili secondo lei. Interessi ignobili. Andiamo su, guardate cosa succede un attimo solo che c'è il traffico, professore, torno subito. Professor Gianni Matti, un europarlamentare indipendente, cioè significa che se n'è andato dall'Italia dei Valori, professore? No, io adesso non sto affatto andando, io sono sempre stato indipendente. Indipendente, come dire, di principio. Traffico, torniamo subito. La Zanzara. E siamo qui, la Zanzara, 800240024, la vostra voce dentro il programma, fra poco, dopo, più avanti, come sapete. Intanto il professor Gianni Vattimo, europarlamentare, grande difensore dei NOTAV, di queste manifestazioni. Devo dire che è anche sotto indagine il professor Vattimo, avere portato come suoi assistenti in carcere a visitare degli attivisti NOTAV, due persone che in realtà non erano suoi assistenti, professore, lo ammetta, ma quali suoi assistenti? Il concetto di in realtà chi è il mio assistente dovreste dimostrare. amministrarlo voi. Vabbè, non era un suo assistente. Diciamo, le è piaciuto fottere lo Stato, provare a fottere lo Stato. Nessuno ha mai chiesto una patente agli assistenti parlamentari. Però non erano suoi assistenti. Con altra gente... sono gente che mi assiste, nel senso, quando devo parlare di TAV mi consulto con loro. Vabbè. È un po' una, è un po' un modo per fottere lo Stato, lo capisco. Non per... mai fottere lo Stato. È un escamotage. È un sacrosanto diritto dei deputati di portarsi in carcere delle persone che collaborano con loro. Sì, ma lei, questi qua non collaborano con lei, ma non sono suoi assistenti. Non collaborano con lei, certo collaborano con professore, me. Professore, su, lei li paga? Vuole... li paga? Ma figuriamo se li pago, appunto, non sono pagati, non hanno un beh, contratto. Dunque, non sono suoi collaboratori, a gratis la portata. Non li paga, amico mio! No, sono dei collaboratori volontari, sì. Ma che volontari? Sono notav che non andranno a trovare altri criminali in carcere! Ma dai! Siete politica, fate la politica di Gregorio, del senatorio di Gregorio. No, però, no, professor Fattimo, lei ha portato in carcere questi qua, che sono due attivisti notav, per farli incontrare... attivisti notav, sono degli agenti che si è impegnata lì dentro e per sapere cosa sono... Ma non sono suoi assistenti, non sono suoi assistenti, altrimenti li pagherebbe. Mentre andavo in casa, li ho nominati sul posto. Ma è la stessa li ha nominati sulla allora, è la stessa cosa che ha fatto Renato Farina, ma si rende conto? In contrasto con la legge? No, ma guardi che secondo me lei si è fottuto lo Stato in questo modo per questa cosa ridicola degli assistenti. Ci ha provato a fottere lo Stato. Ha ben altre difese. Ha fatto bene, Lei ci ha provato. Vabbè, comunque voglio sapere da lei una cosa, professore. Se uno tira durante una manifestazione un sasso contro i poliziotti, è giusto? Beh, bisogna vedere se sta rispondendo a delle cariche di lacrimogeni che sono vietati anche in guerra, soprattutto in guerra. No, però scusi, professore, lì c'è lo Stato che lo Stato. Ma disuso, c'ero anch'io quando hanno tirato questi lacrimogeni e mi piangevano gli occhi. E avrebbe tirato un sasso anche lei se l'avesse avuto? No, io non ho tirato sassi perché purtroppo ho male un braccio. Come purtroppo? Perché se avesse la forza? Ma insomma, adesso ragazzi, lo so benissimo che negli scioperi qualche cosa di questo genere succede. Cioè è normale che qualcuno tira un sasso contro la polizia? No, non è normale, ma non è normale neanche accusarli di terrorismo e di sovversione. E questo è il punto. Beh, ma se ci sono dei gruppi organizzati che sistematicamente... dimostrate che ci sono dei gruppi organizzati, vabbè. Per adesso ci sono soltanto dei singoli che vanno lì a protestare e a dimostrare. E se qualcuno tira dei sassi, può darsi che effettivamente, siccome non c'è una disciplina militare come nella polizia, può capitare, vabbè. Ma nessuno di noi lo sostiene. Senta, professor Battimo, una cosa, cambiando argomento, un suo collega che si chiama Odi Freddi ha detto che l'olocausto abbiamo solamente delle prove perché ce l'ha fornita la propaganda americana. Lei è d'accordo? No, per carità, io non ho mai negato l'olocausto. Sono scandalizzato dell'uso spregiudicato che fa Israele dell'olocausto per giustificare la propria politica. L'uso spregiudicato. Cioè gli ebrei, secondo lei, esagerano sull'olocausto? Dai, professore. Ma gli ebrei, gli israeliani, che è tutto diverso, ma ragazzi. No, d'accordo, gli israeliani, lo Stato di Israele, perché sfrutta l'olocausto? Non ho capito. Lo Stato di Israele opprime la Palestina, opprime Israele. Ma che c'entra l'olocausto? Cosa c'entra con la Shoah? Niente, c'è stato un grande storico ebreo, Finkelstein, che ha scritto l'industria dell'olocausto. Allora, leggetevi quello e poi imparate. Lei è accecato da odio anti-israeliano e anti-americano e quindi usa qualunque strumento... Lei, lei odia Israele. Qual è la polizia mondiale in questo momento? È l'America assistita da Israele. Cioè lei odia Israele? Odia Israele, certo. Non odio Israele, non voglio che ci sia uno stato confessionale razzista come Israele. Razzista per giunta. È certo che è razzista, certo razzista. Scusi, però hanno sfruttato i diritti degli israeliani. Però scusi, professore, sfruttano l'olocausto secondo lei Israele? Come? Anche gli ebrei italiani sfruttano l'olocausto? Io non lo so, gli ebrei italiani poveretti, anche loro sono leggermente come poveretti? Fanatici degli ebrei di altri paesi. Perché? Chomsky non è italiano, Edgar Morin italiano, sono ebrei fortunatamente non fanatici del sionismo. Gli italiani purtroppo sono così. Pensate, io sono sionista, e come invece? Sono ultra sionista, io altro che... Infatti lo sento. Sono ultra sionista. Non mi stupisce nemmeno. Scusi un attimo, un'altra cosa, gli americani che spiano tutti è una cosa che la sorprende, a me non sorprende per niente, non capisco tutta questa... Ma meno male che ci spiano. Tutta questa impressione. Non mi sorprende affatto. Certo mi dispiace che succeda, non mi sorprende, ma questo non vuol dire che lo approvo. Se sentissero le sue telefonate, cosa verrebbe fuori, professore? Che ne so, probabilmente tirano avanti anche con loro. Per adesso non sono così significativo da essere spiato. Ma come? Davvero. Ma non aveva detto che era nel mirino del Mossad e della CIA, scusi. Merkel, se divento presidente del Consiglio mi spieranno fin quando vado a dormire. Questo è il punto. A proposito, Busi, lo conosce uno che si chiama Busi, lei? Sì, lo conosco nel senso che lo so chi è. Beh, un grande, Busi, un grandissimo. Non mi è tanto simpatico, ma devo ammettere che dice delle cose serie. Quando dice, per esempio, che non tutti i minorenni sono uguali, no? Ha ragione, secondo lei? E che ne so, io non No, ma sulla pedofilia, lui parla della pedofilia, delle, dei, no, dei reati sessuali. Questo, questo problema. Dei reati. Esattamente, non sono pedofilo. No, per carità. Per carità, per carità, assoluta. Però lui dice non tutti i minorenni sono uguali, cioè non si può paragonare una carezza, una cosa a un bambino di 7 anni e a uno di 17, diciamo, questo dice. Forse questa ha ragione. Appunto, dipende dall'età, dall'età legale del consenso. In Italia il consenso credo che sia 18 a 16, non lo so. Vabbè, comunque, no, è un discorso. Sono dei ragazzini che sono molto più evoluti sessualmente di me e vabbè, sono cavoli loro. Cioè anche minorenni, dice lei, anche minorenni. Beh sì, minorenni legali sì, ma quando ci raccontano che Maria Santissima si era sposata a 12 anni, vuol dire che c'è qualcosa di culturale in tutto questo. Cioè? Cioè che diverse culture considerano l'età del consenso in diversi modi. Cioè per lei dovrebbe essere abbassata l'età del consenso, per esempio? No, non lo so, a dire la verità non me ne, è l'ultima cosa di cui mi preoccupo. Non gliene importa nulla. L'abbraccio, a presto, Giornale Radio, grazie. A presto. Basta, ma che stiamo ancora a parlare? Ma di che stiamo a parlare? La zanzara. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino. Ma tu ti rendi conto, David, il fisco italiano, no? Poi uno dice che non si incazza e non sta dalla parte del signor Maradona. Perché io mi viene voglia di stare dalla parte del signor Maradona. Ti giuro, mi viene voglia di stare dalla parte di Diego Armando Maradona, più te lo puzzano, giuro. Più commettono le fandezze, più sono mostri, più li sostieni. E ti piace così? No, ma il punto è un altro. Donna, Sofia, lo prendiamo il caso. Dai. Prendiamo il caso della signora Sofia Loren. La signora Sofia Loren si è fatta nel 1982 17 giorni di galera. E va bene, sono passati più di 30 anni. D'accordo. La Loren, appunto. Cioè, il fisco dopo 31 anni gli ha dato ragione. Ha dato ragione a Sofia Loren. Beh, dopo 31 questo, anni. Ma vabbè, questo è criminale, 31 certo. Anni, ma questo è 31 ma anni. Questo certamente è criminale. Dai. Ma, no, ma che, con l'evasione fiscale che c'entra? Ma non c'entra, è la perversione. Ma di che stiamo parlando? No, appunto, stiamo parlando di cose molto serie, di cose molto serie, altro che. Molto serie. Molto serie, di cose molto serie. La Santanchè dice no all'uomo bancomat contro Veronica Lario, sentite. Il fatto che uno faccia ricorso perché che la parità inizia nella culla, se noi donne cominciassimo questa roba qua sarebbe un bel percorso. D'accordo. Abituarci che gli uomini non sono dei bancomat. Ecco, appunto. Che gli uomini è un concetto che io non ce l'ho dell'uomo bancomat. Intorno, intorno c'è un mondo che ha già tutto. Spero che in un mondo, nel mio mondo, siano le donne a pagare gli alimenti agli uomini. Io preferirei pagare io gli uomini anziché essere pagata, perché per cui è proprio una questione mentale che non riesco a comprenderla, perché io trovo che le donne devono lavorare, devono diventare, voglio dire, permettersi il lusso come fanno gli uomini, di pagare gli alimenti. Cioè. E mentre Brunetta dice via la Bindi dalla commissione antimafia oppure guerriglia, guerriglia insomma. Eccovi i titoli del TG3. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Esplode in Europa lo scandalo Datagate, anche l'Italia spiata dagli americani. Letta, non possiamo tollerare zone d'ombra o dubbi, vogliamo la verità. Intercettato il cellulare della Merkel, la cancelliera è inaccettabile, convocato l'ambasciatore americano Schulz, sospendere i negoziati di libero scambio. Salta l'accordo sul decreto pubblica amministrazione, Brunetta, via Labindio e guerriglia, vertice al colle sui tempi della riforma elettorale, protestano le opposizioni. Berlusconi convoca per domani l'ufficio di presidenza PDL, si decide sul passaggio a Forza Italia e cariche interne. Alfano, non lavoro per un centrino. Candidati in pista per il congresso PD, oggi comincia la campagna Ricivati. Renzi su Berlusconi, non stupisce l'inchiesta sulla compravendita di senatori. Le scuse di Squinzi, le mie parole male interpretate, aveva detto niente porcate sulla manovra, ma conferma più risorse per tagliare le tasse. Morto dopo il presidio al ministero per chiedere l'assistenza ai disabili, uno dei portavoce dei malati di SLA, anch'egli colpito dalla malattia, diceva: non c'è più tempo. Non me moleste moschito, non me moleste moschito. È sempre il numero uno, l'incredibile performance del presidente della Lazio, Claudio Lotito, intervistato, che è anche presidente della Salernitana Calcio, caro Parenzo, impara. Presidente Lotito, che sarebbe perfetto in qualsiasi talk show, il quale sbotta contro una giornalista, credo di un'emittente locale che si chiama Lira TV. Lotito. Io sto parlando dei risultati che sto analizzando al cammino. Scusi, lei ha detto che la Serenità ha sempre perso le squadre importanti e ha vinto solo squadre importanti, ho detto squadre che sono al vertice della classifica. Al vertice della classifica. Io sto dicendo in precedenza, no, fino ad ora. Porta dell'acqua, fate che parli. Nel campionato. Là. Ma il campionato è lungo, professore, se no si faccia una cosa. Ci mette il suo proprietario della società a far presentare la squadra, il caccia sicuro. Venga il suo presidente a fare il presidente di calcio e cacciasse pure i soldi, professore, la chiama professore. Nei momenti in cui la squadra è stata chiamata a un esame con squadre che ora sono in vetta alla classifica, vedi il Pontedera e vedi l'Aquila, è venuta meno. No, lei sta dicendo un sacco di corbellerie, perché con l'Aquila hanno fatto un tiro in porta l'Aquila, la nazione che... Però la Salernitana l'ha persa. Ma ha perso, ma che significa? Io sto dicendo, allora, lei sta facendo, confonde il pallone col calcio. Poi cita Napoleone, questa è stupenda, confonde il pallone col calcio, Napoleone. Dicendo sul piano dei risultati, la Salernitana è venuta meno. Una cosa, lei sta parlando del piano tecnico. Sul piano tecnico non puoi riprovare niente, dal punto di vista tecnico 50 partite si vincono dal punto di vista del tasso. Il problema è che è verdi, quindi significa che oltre ad essere... bravo di essere fortunato, e io ti stavo dicendo Napoleone, lo ripeto, dice sempre, è meglio un generale fortunato che... è solo una questione di sfortuna, ma è un momento che sicuramente le cose non vanno così perso, giusto, perché... Lotito 800 24 00 24, dove andiamo? Mauro da Milano, buonasera. Purtroppo sono arrivato a casa, quindi mi sono perso una parte, cercherò di essere breve. Ho sentito un po' di cose col professore che c'era prima in diretta. Sì, e mi sembra di sentire alcune stupidate in merito agli ebrei, in quanto si... Bravo. Cerca sempre di... Vabbè, poi? Beh, io sento che voi accusate sempre Hitler, il razzismo, il nazismo. Beh, come accusiamo? Queste ideologie non le ha certo create Hitler, non le ha certo create la Germania. Sono tutte ideologie che arrivano dagli Stati Uniti. E penso dagli che voi Stati Uniti, sì. Cose... Beh, eugenetica non vi dice niente? Cioè, non ho capito. L'eugenetica, come direbbe Parenzo, il signor Galton, Francis Galton, come direbbe lei? Ma che ci frega a noi adesso di questa roba qua? Scusi, non ho capito, Mauro, a noi che cosa ce ne frega alle 19:26 del 24 di ottobre sapere queste cose su dove viene l'eugenetica? Che cosa ce ne frega? Me lo può dire o no? Perché in realtà si cerca sempre di far passare gli ebrei come vittime, quando invece, tutte queste teorie, sì, in realtà non sono state fatte da Hitler o da Hitler, no, lui, sì, contro gli ebrei, ma vengono fatte da lontano, e da caso poi i beneficiari della Seconda Guerra Mondiale sono gli Stati Uniti e Israele. Vabbè. Quindi in realtà non capisco da mai quale struttura, sì, giusto, da quale struttura sanitaria chiama? No, dalla struttura sanitaria, chiamo da casa. Per da casa, dalla struttura sanitaria di casa. Sì. Situata dove? A Milano? In che zona? Milano. No. Un plauso. Qualcuno, cioè, no, pensa... lei è già dentro una struttura sanitaria. Evidente. Cioè, lui pensa che il razzismo, queste robe è già qua, dentro una struttura sanitaria. Realtà, cose, no, attenzione, della... guardi che anche Israele si macchia di razzismo, però nessuno lo dice. No, voi però lo è sapete, pieno di, voi lo è pieno di gente che lo dice. Giuseppe da Livorno, buonasera, non si preoccupi, è pieno di gente. Giuseppe da Livorno. Buonasera, Grusciani. Dica. Io volevo rispondere al signor Parenzo, sì, in merito all'onestà dei signori Rom. Sì. Ah, dica, Giuseppe. Ecco, lui sospira, vabbè, comunque. Ecco che arriva il razzismo, forza, sentiamo. Prego. No, sì, non sono, prego, razzista, io Parenzo, non sono razzista. Io, allora, volevo dire, sono un ex operatore di sicurezza dei centri commerciali. Sì, allora? E praticamente... il 95%, e dico bene il 95%, sì, delle persone che io fermavo, sì, erano tutti Rom. Tutti Rom. Ecco, Radio Terzo Reich. Ma prego. Che Terzo Reich? Dice una, ecco, realtà. Ecco la Radio Terzo Reich. Tu hai sostenuto che gli italiani rubano come rubano i Rom. Certo. Statisticamente, no, sicuro? No, lui... Sicuro? Lui dice, basta vedere chi c'è in Parlamento. Ma che c'entra sì, il Parlamento? Vabbè, che è lo specchio del paese. Che è lo specchio del paese. Senza dubbio te non sbagli, Vabbè, allora Giuseppe, lei ha fatto la sicurezza nei centri commerciali e ha visto che il 95% dei furti sono commessi da Rom, giusto? Sì. Va bene, perfetto, grazie. Paolo dalla provincia di Varese. Ha fatto le sue statistiche personali. Anzi, capito? Elisabetta dalla provincia di Treviso. E il Censis ha chiamato. Elisabetta, il signor del Censis ha chiamato. Pronto? Dica. Buonasera, buonasera. Niente, io ho ancora la tachicardia per quello che ha detto il dottor Parenzo. Cioè? Intanto, ecco. Che appunto noi italiani rubiamo tanto quanto. Sì. Cioè io sono veramente tachicardia. Guarda, veramente cosa? Io ho ancora la tachicardia perché cioè, ci chiama con questa voce da Rosario, con questa voce da innocua e mi viene chiama con tachicardia per quello che ho sentito. Ma cos'è che ha sentito? Ma le è venuta la tachicardia. Ma che falla cosa? Parlare. Come si fa a generalizzare, a dire delle cose che i Rom rubano, quelli rubano? Ma come si fa a dire gli albanesi stuprano, i Rom rubano? Ma come si fa a essere così ingenui? Ma, scusi, no, non hanno lavoro fisso, non hanno, perché una volta aggiustavano pentole, facevano qualche lavoro. Adesso che cosa rubano fanno? Tu niente, rubano. Stanno nei caravan e rubano tutto il giorno. Un attimo solo che c'è la borsa. La borsa. Attenta alla borsa che la portano via i Rom, la borsa. Attento, attento. Fa male solo a chi non sa ridere. E la zanzara. La zanzara. Se tu davanti piano guardi il mare, morente che si schiava con gli schiavi, vedrai come in un sogno tante navi, è un tricolore sventola per te, accetta La zanzara, l'unica trasmissione che ospita neofascisti, nazisti, estremisti che cloaca. Di tutti i tipi. Come che cloaca? Perché che cloaca? Uno la vuole una cloaca le volte, bisogna dirlo. Ieri è fascisti, stata la volta. Carogne, tornate nelle fogne. Ieri è stato il turno di Roberto Jonghi Lavarini, von Urnavas, detto il barone nero. Von Ribbentrop. Culturalmente e spiritualmente sono fascista, nel senso che se fossi nato vissuto in quel periodo lo sarei stato. Adesso non lo posso essere perché intanto non sono nato in quell'epoca. Guardi, è un saluto assolutamente sacro, quindi si fa nelle grandi occasioni ufficiali, quindi quando si salutano i caduti che passano a miglior vita. Al campo 10 per onorare i caduti della Repubblica Sociale, a Predappio quando vado a trovare a visitare la tomba del Duce, in quegli ambiti assolutamente sì. Ma lo sa Parenzo, lo sa quanti calendari del Duce vengono venduti d'Italia ogni anno? 3 milioni, supera anche Padre Pio e quello... 3 milioni, questo è indicativo di com'è, dove batte il cuore profondo del popolo italiano. Roberto Jonghi Lavarini, vicino alla destra di Storace, il nazismo ha fatto cose buone. Il regime nazionalsocialista ha fatto in Germania grandi cose per il popolo tedesco, questo è innegabile. Politica economica, politica industriale, politica sociale e politica persino ecologica. Questo ha fatto, poi ha fatto i suoi errori gravi come tutti i regimi, perché la democrazia non ha fatto milioni di morti? La democrazia che bombardava Dresda, la democrazia delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, non ha fatto morti? E noi siamo qui, 800 24 00 24. Dove andiamo? Sono dove quei andiamo? Casi in cui uno dice perché non si è bucato il preservativo, capito? Eravamo con Elisabetta, su. Alcuni Elisabetta. Casi ci sono, no? Elisabetta, dai, uno, su. In cui uno se lo chiede. Cosa si chiede? Non è detto che sia nel caso specifico. Alcuni casi, per paradosso, uno si dice, ma perché quel giorno a casa di qualcuno non si è bucato il preservativo? Perché? No, perché? Perché si è bucato, forse? Perché si è bucato? Certo, perché? Cioè... Perché si è bucato? Vabbè, ma adesso stai zitto. Dovevano metterne due. Teatrino, due zitto, dovevano metterne. Due. O andare al cinema. I genitori von Ribbentrop. Urnavas. Elisabetta, allora? Allora, niente, in questo momento di questo spacco, prima di tutto non vorrei dimenticarmi di chapeau a lei, dottor Cruciani, che invita tutti destra, sinistra. Vabbè, ma non me ne frega niente a me di chapeau. Elisabetta, allora qual è il problema? Ma avevo voglia di dirlo. E niente, dicevo che in questo stacco ho pensato che non hanno più bisogno di rubare, è vero che non hanno bisogno di rubare, perché mi pare, non vorrei avere un dato sbagliato, che dallo Stato prendono una sovvenzione, prendono qualcosa. Beh, certo, i campi rom vengono sicuramente rifocillati dallo Stato. No, messi a norma, ecco. Vengono messe delle foglie, mentre vengono fatte dei... Vabbè, Elisabetta, ho capito, però Paolo provincia di Varese, dai, Paolo provincia di Varese. Cruciani, mi sente? Sì, la sento, dica. Buonasera a lei e agli altri. Niente, volevo solamente dire, ma l'ambulanza non c'è più. Prima c'era lì un sedicente professore che diceva tante di quelle stronzate che erano bestiali. Vabbè, potevate far venire l'ambulanza anche per lui. Vabbè, no? Ma non è... ecco. Purtroppo oggi sono un po' impegnate le ambulanze. Ecco, secondo, volevo velocemente dire che per quanto riguarda l'odio razziale, che è anche un reato, anche un'istigazione. Bravo. Che è anche un reato, ma se uno comincia a ascoltare Parenzo e comincia a ascoltare Gad Lerner e comincia a odiare gli ebrei. Non ho capito, scusi. Se uno, siccome l'odio razziale è un reato, l'istigazione all'odio razziale. Quando uno ascolta Parenzo e quando uno ascolta Gad Lerner o anche il signor De Benedetti, comincia a cominciare a un po' odiare gli ebrei, abbia pazienza. Cioè, non ho capito, se uno ascolta Parenzo, ascolta De Benedetti, comincia a odiare gli ebrei, ma lei, perché lei sarà malato, perché lei è malato. No, io non sono malato. Sì, lei è un malato di mente, perché se lei ascolta Parenzo e odia gli ebrei, lei è picchiato in testa. Ma quante stronzate che dicono. Ma che significa? Uno può dire anche delle stupidaggini, ma bisogna vedere se cosa c'entra l'appartenenza. Ma cosa c'entra l'appartenenza? Cruciani, è chiaramente una provocazione, no? Beh, è una provocazione. Sì, una provocazione dai. Proprio bieca, bassa, una provocazione ridicola, Paolo. Flavio da Roma, pazienza, dai, Flavio da Roma. Per dire che difendono, va bene, ma c'è sempre modo e modo, dai. Va bene, Flavio da Roma. Buonasera, Cruciani. Dica. Allora, io volevo dire che il caso Bonev è una bufala d'orologeria ordita dallo stesso Silvio Berlusconi per avvalorare la tesi di accanimento mediatico. Vabbè, ma è un altro... Volevo dire, guardi, la Bonev è una professionista del pathos, quindi il fatto che si presenti come un'ingenuotta, prima cosa, è veramente cioè lei sostiene che Berlusconi ha architettato tutto. Che può guadagnare invece Silvio Berlusconi nel momento in cui... Vabbè. Sì. Nel momento in cui farà vedere potrà delegittimare le testimonianze. Quindi la Bonev è pagata da Berlusconi per dire quelle cose, questo è il grande complotto, giusto? La Bonev sarebbe mandata da Berlusconi a dire quelle fregnacce per creare ancora consenso a Berlusconi, giusto? Praticamente questa sì. È la e Bin Laden è un americano, infatti, anche, no? Ma guardi, effettivamente e gli americani si sono fatti il dolore di gemere da sole, eccetera. Una cosa mentale mia, però se vediamo anche quello che avviene all'interno del PDL, ad esempio la falsa intercettazione di Silvio Berlusconi sul Napolitano. La intercettazione. Io dico che a un certo punto. Vabbè, Flavio, ho capito. Riccardo da Pescara. Riccardo da Pescara. Buonasera. Pronto, buonasera. Vada. Senta, volevo dire due cose. Due cose, facciamo una. Mi piace come conduce la trasmissione. Non me ne frega niente, vado avanti. Sì, ma lo so che non gliene frega niente. Glielo dico. Vada avanti. Mi fa andare avanti, vado avanti. Perché comunque, nonostante tutto, fa parlare tutti quanti. Questa è una cosa che comunque... abbiamo capito, vada avanti. E poi volevo dire un'altra cosa, però senza essere interrotto da questo punto di Parenzo. Va bene, d'accordo, non si preoccupi. Ecco, senza essere tacciato per razzista. Io vivo a Pescara, una città piena di zingari. Sì, è vero. E il problema principale non è soltanto il fatto che loro non fanno nulla dalla mattina alla sera. I campi sono pieni di BMW e Mercedes dell'ultimo tipo. Vabbè, naturalmente. Allora? Il problema è che loro non hanno nessunissima voglia di integrarsi con il popolo italiano. Tant'è che sono nomadi, sono rom per definizione. E molti sono anche italiani, peraltro. E allora? Molti sono anche italiani, ma sono rom dentro e sono rom anche dentro. Mi permette cioè, lei vuole dire che è sono vero, come c'è uno che è un coglione dentro, molti sono rom dentro. Certo, come uno certo, rom e rom dentro, certo, sì. Ma cosa vuol dire rom dentro? Come che c'è una caratteristica rom che è quella di rubare? Certo, cos'è? C'è una questo? Cioè, qual è quella di rubare? Qual è la caratteristica rom? La caratteristica rom è che sono dei rom e basta. Lei parla in questo modo perché comunque lei insomma non vive certe realtà. Ma come lei no? Prende il taxi, finisce. Ma che taxi? Ma se io vado in metropolitana e vedo sempre i ragazzini che chiedono la carità. Ma che dici? Sempre in metropolitana. Si davanti al conducente della metropolitana. Non si preoccupi. Invece gente che vive ogni giorno a contatto con questa gente ha dei problemi. Ho vissuto a Milano 10 anni. In cui vicino uno a un prova a dire qualcosa ad una zingara che sta facendo l'elemosina con il marito che aspetta dentro e controlla dentro la macchina, non è che scende il marito chiama i suoi accordi. Io dico non si può generalizzare così, basta, non è possibile. Ti vengono a trovare a casa, ti vengono a trovare. Non si può generalizzare con io non ho capito. Non si può generalizzare perché si generalizza, perché io ne conosco tanti e sono tutti alla stessa maniera. Cioè non che sono ladri, cosa sono? Che lavora. Ah, lei non conosce zingari che lavorano. Beh, effettivamente non è che se ne vedono tantissimi che lavorano, non se ne vedono tantissimi, Parenzo. Non puoi dire che vivono come gli italiani, non puoi dire. Beh, non puoi dirlo. Dico che sono in Italia 160.000 i rom. Ma allora, non puoi dire che sono come gli italiani. Si sa dove sono, andate a prenderli. Se 160.000 rom sono 160.000 criminali. Qualcuno propone all'ispettore del fisco, per carità, ci sono cose più importanti da pensare. Chi la legge? Di andare nei campi rom. Se voi danzano come zanzare, queste ombre sulla strada. È con noi Giampiero Mughini, buonasera, ciao Giampiero. Eccoci. Come va? Come va? Come va? Come può andare, caro amico? Dopo ieri, dopo ieri sera non bene, non bene. No, però... ma ieri sera è una tale rapina che anzi rispetto alla giustizia e alla verità siamo in una posizione di ferro a mano però... armata, diciamo, con la mascherina. Parla proprio della Juve, immagino. Beh, certo. Beh, giusto sì. Con la... certo. Beh, perché sento un rumore sul fondo, chi è? È Bibi, è la voce di Bibi. Che strano. Allora ragazzi, dai, parliamo di cose serie. Hai scritto oggi un articolo su... io leggo tutte le volte che c'è Mughini, giuro su Dio, giuro che io lo leggo. Non giurare. No, giuro davvero, io sono credente. Vabbè, allora, che cosa c'è in questo articolo? Ha scritto oggi un pezzo dal titolo "Al ristorante con la mia Bibi". Perché adesso, da adesso in poi, si può portare il cane al ristorante, ecco. Si può portare il cane al ristorante anche se con la museruola, ecco. Credo, e con non ecco. So che cosa. Era prima, non era, diciamo, non era possibile farlo. No, giusto Giampiero? Sì, prima Bibi. C'era per i 7 milioni di italiani sì. Che custodiscono e amano un cane questo impedimento razzista che impediva agli esseri a quattro zampe, che nella loro media sono molto migliori degli esseri a due zampe, sì. Di entrare in un ristorante. Parenzo, io che naturalmente sono, non dico pienamente responsabile, ma di più di BB, come di ogni cosa che certo. Faccio. Mi dispiace, no, sarebbe orribile, come dire a un ebreo non entrare. Ma che no? C'entrano? Ecco, questo mi manda ai matti, perché tu l'hai scritto nel lead, nell'attacco del tuo pezzo. Ma come si fa a paragonare i cartelli che mettevano durante la Seconda Guerra Mondiale vietato l'ingresso agli ebrei? È un modo di scrivere. Ho vietato l'ingresso ai meridionali. È il paradosso che lui utilizza. In quanto ebreo ti sei sentito indignato? Ti senti indignato? Ma certo! Ma come si fa a paragonare? Vuoi insegnare come si campa a questo signore, per favore? Vorrei che David si astenesse dal tentare di insegnarmi come si scrive, come si attacca. Ma non è come un pezzo. Si scrive. Tant'è vero che in quello stesso pezzo io dico sarei un cretino sì. Se paragonassi. Però poi dici tragedia. Sarei un cretino. Era un modo di attaccare il pezzo per far leggere una cosa che secondo me è importante, la civiltà sì. Che permetta agli esseri a due zampe, a quattro zampe di convivere serenamente. Ma i cani sono cani, cioè a me possono anche star simpatici, cioè, perché devo andare in un ristorante e avere bau bau per sto cane in me? Perché devo andare in un ristorante? Giuseppe, mi puoi togliere dall'orizzonte, David? No, ma scusi, toglimelo Mughini. Però anche Cruciani, adesso Cruciani è inutile io difendi Mughini, perché no. Anche tu pensi che un cane va al ristorante? No, io no, perché il cane sta a casa sua, il cane non va al ristorante. No, perché, scusa, perché se è tranquillo, se è un cane tranquillo, il padrone riesce cosa a tenerlo... facciamo? E vado al ristorante, devo avere un sacco di cani attorno. Cosa può succedere, scusa? Giuseppe, sento un ronzio lì in fondo, non capisco cosa sia. Ma c'è scusami. Deve essere un difetto dell'udito. Ma tra l'altro, scusa, il rumore che fanno i ristoranti certe persone non è superiore ai fastidi che può dare un cane? È ovvio. Dai! Quelli che al telefonino stanno attaccati. Ma dai, cioè via, non ne voglio neppure parlare. Ma neanch'io, perché non voglio andare al ristorante e trovarmi circondato da cani. Non voglio, voglio mangiare tranquillo. Voglio mangiare, non voglio avere... Giuseppe, Davide l'ho pagato, lo fa gratis. Perché se lo facesse gratis si può capire, come quelli che vanno ai talk show. No, ma... giustamente Ricci ha detto, ma chi volete che prenda la Sant'Anchè se non perché è gratis? E dai, però, dai, scusami, i ristoranti, io capisco, possiamo fare alcuni ristoranti dove Davide, sono... congedati! Ma io devi rispondere nel merito, però perché, invece scusa, di continuare con congedati, Giampiero, rispondi a questa cosa. Lui vorrebbe, tu vorresti le cose, le camere separate, vorresti le sale separate, sale fumatori, come sale per i fumatori, cani, certo, sale cani, questo è evidente. Ma dai, sale fumatori su, dai, e sale coi cani. Vuoi mangiare col cane? Mangi col cane, anche sulla ciotola se vuoi mangiare. Ma io non voglio avere cani che scorrazzano liberamente mentre io mangio le tagliatelle al tartufo. Non voglio avere cani che scorrazzano, questo non c'è. Ormai è tutto. Ormai è tutto, tutto degradato. Non è degradato niente. Giampiero, vuoi rispondere a questo cretino? No, ma è di una semplicità mortale. Ma Davide lo sa, semplicemente deve recitare la sua parte. No, media. Ma davvero? Deve recitare la sua parte. Sale per fumatori. Noi che amiamo i cani, eccetera, e così via, naturalmente fanno parte della nostra quell'ipocrita vita, maledetto della nostra vita responsabile. Continua a sentire un ronzio, no, della nostra vita responsabile. Bibi, quando viene al ristorante, alla fine della cena, i proprietari del ristorante mi supplicano di riportarla al più presto possibile. Ma figuriamoci, ma figuriamoci. Okay? Vabbè, ma scusa, ma adesso ti pare? Ma perché uno ha le sale? Però possiamo parlare d'altro, perché dobbiamo parlare per forza? Perché l'ha scritto tu lui. Sei fissato col ha cane scritto di lui, perché sei fissato? Perché una volta ha scritto un pezzo sulle Ferrovie dello Stato, su Trenitalia. Ma qual è il problema? Che di sto Bibi. C'è un sacco di gente. Pare che il problema del mondo sia Bibi. Ma perché dice queste stupidaggini? Bibi adorabile. Pagarlo. Io non posso credere che buttiate i soldi pagando. Uno dice BB, cioè, qual è il dramma oggi di BB? Che non può entrare al ristorante. E non entra al ristorante, BB. Sta a casa, BB. O fuori. Davide, o fuori. Ti dispiacerebbe andare a fare in culo? Non so. È stupenda. Questo devo dire è meravigliosa. Scusa. No. No, tanto per dire. Beh, io non capisco. Tanto per dire, uno va al ristorante, guinzaglio, lega BB fuori dal ristorante e io mangio le mie tagliatelle tranquillo. Sei un coglione. Perché tu vuoi. Adesso no, perché fai l'ipocrita. No. Siccome tu fai l'ipocrita, no. Voglio vederti mangiare al ristorante. Io in non cui ho problemi. Se tu non ho problemi. Non voglio usare il paradosso. Ma non ho problemi. Ti assicuro che non ho problemi. Allora, voglio vederti al ristorante. Se per io caso prendo, finisci. No, cani a casa perché non mi piacciono. Se questo non significa che sono razzista con quelli che hanno i cani come sei tu. Ma io non sono razzista per niente. Dico, se mi trovi in un ristorante con 60 coperti e 60 cani, voglio vedere come cazzo mangi. Quello voglio vedere. Ma questa 60 coperti, 60 cani. Voglio vedere come cazzo mangi. Perché deve esagerare così, no, Giampiero? Perché così? Deve esagerare così? Ma non lo so. Beh, evidentemente perché ha pochi argomenti. Ma no, anzi. E usa un argomento solo se esasperato e grottesco. D'altra parte in Italia tutto oggi è così. La gente non ha argomenti, ma in qualsiasi discussione della vita pubblica e della comunità comune parla in modo esasperato e grottesco. Se si deve criticare Giorgio Napolitano non lo si fa in un modo ragionevole, civile, eccetera, però dicendo panzane incredibili. Devo continuare. Perché? Se si vuole buttare il fango sulla vita privata dell'ex presidente Silvio Berlusconi, si raccontano delle panzane incredibili in una trasmissione che sembrerebbe di giornalismo. E invece che cos'è la trasmissione di Santoro? Beh, in quel caso lì è di gossip sfrenato, grottesco e volgare. Scusami, quel caso lì. Sì, in quel caso lì, beh certo. Però io devo dire la verità, oggi, caro Giampiero, leggendo quello che è successo alla signora Sofia Loren, che dopo 31 anni, questo è giusto. 31 anni, il fisco gli ha dato ragione ed è stata in galera per 17 giorni. No, però scusa, Giuseppe, non è stata in galera per questa ragione. Sì, vabbè. Perdonami. Per un'altra faccenda, quindi io da una parte sono sensibilissimo al tuo argomento, che poi conosco di che cosa si tratta, la presunta evasione, lei che fa un condono, eccetera, eccetera, Ma non è stata in galera per questo argomento, per un altro? No, per questo, per, sempre però per una vicenda legata alle sue pendenze col fisco, alle sue pendenze. Certamente. Allora, Giuseppe, però dopo il tempo di 31 anni per darle ragione, mi fa dare ragione Giuseppe, a Maradona. Mi vuoi convincere? No, per carità, sul tempo no, però anche io ho sentito quello che questo ha detto nei giorni scorsi su Maradona. Ora io dico una cosa, per carità, Maradona è uno stronzo, probabilmente... No, io non ho detto questo. No, quello dico io. Magari nell'accezione comune è uno arrogante, che non ha pagato le tasse, che a un certo punto strafottente se n'è andato fregandosene di fare ricorsi, sicuramente era pieno di cocaina a Cuba, lo sappiamo tutti, no? Come è finita come purtroppo per lui, mica lo dico in senso negativo. Io non l'ho detto in questo modo, ma insomma. Beh, ecco. Io lo dico in maniera diretta. Era è andato via a Cuba, aveva i suoi problemi e non ha fatto i ricorsi, però una parcella che passa da 6 milioni con tradotto dalle lire agli euro di oggi a 39 milioni, c'è anche un problema da questo punto di vista, Giuseppe, o no? Pensi che io sia cretino? No, ma questo mai. In primo luogo non è esattamente da 6 ma da 11, perché voi state ad ascoltare quell'avvocato suo che è molto, diciamo, showman. No, ho letto Franco Bechis sul tuo giornale. Anch'io ho letto naturalmente Franco Bechis, che è un ottimo giornalista, sul mio giornale. Io credo che Franco Bechis abbia preso in un modo troppo perentorio le ragioni della difesa del nostro Maradona. Io figurati, per carità, non mi permetto di mettere becco su cose che uno o le conosce benissimo o niente. Certo. Detto questo, c'è una commissione tributaria che in modo definitivo ha deciso che il grande calciatore Maradona se n'è strafottuto di una questione fiscale, vero. Se n'è strafottuto, e con gli anni gli interessi esistono, capisci? Sì, no, d'accordo, però insomma dico che il gesto dell'ombrello è condiviso da molti italiani, diciamo la verità. No, perdonami Giuseppe, anche questo. Se il gesto dell'ombrello fosse stato fatto alla prima e spero non ultima puntata di Radio Belva, non c'era niente di male. Ma se il gesto dell'ombrello viene fatto in uno studio televisivo di Rai 1, la rete per eccellenza del servizio pubblico, Rai 3, dinanzi a un conduttore che chiamerò compiacente o diciamo passivo, e nel frattempo la clac applaude, beh, questo è indecente. Un attimo solo, pubblicità, torniamo subito con Giampiero Mughini. David, ti dispiacerebbe andare a fare in culo? La Zanzara. David, ti dispiacerebbe andare a fare in culo? Siamo qui 800-24-00-24. Ma bisogna mandarlo continuamente. Beh, certo, ma ha detto... David, dispiacerebbe andare a fare il culo. Vabbè, adesso abbiamo... Ripetita Juvent, ma pluria secca. Per adesso c'è ancora Giampiero Mughini in collegamento con noi. Caro Giampiero, ma la Santanchè che definisce Napolitano un traditore, come la giudichi? A parte di tutti i linguaggi e le regole conosciute dalla società occidentale. Cioè? La Santanchè fa di mestiere la Santanchè. E sai, è una parte in commedia. Sì. E dunque tu ti aspetti che nella circostanza di cui stiamo parlando, lei, anziché ragionare, straparli in modo ossessivo e schiamazzante. Sì. Lo ha fatto, nulla di stupefacente. Ma tu ti sei trovato in qualche trasmissione accanto a lei, vicino a lei? Certo, mi sono trovato in più d'una e in una mi vanto di essere riuscito a farla andare via indignata. Addirittura, non che io fossi stato sgarbato, tu sai che non lo sono mai, però era talmente palese la cosa che lei, non avendo nessunissimo argomento da opporre, ha fatto il cerimoniale dell'uscita di scena, un cerimoniale che nei tanti anni che faccio in televisione ho visto fare a lei, a Di Pietro e altri piccoli personaggi così. Piccoli personaggi, dunque è un piccolo personaggio, secondo te. Però insomma, perché viene chiamata, anche noi la chiamiamo, perché non ci tiriamo indietro, eh? Secondo te che cos'è che ci porta a chiamare la Santanchè alla radio, in televisione? Qual è la naturalmente il gusto dell'eccessivo, che talvolta è un horror. Sai, se tu dici che 2 più 2 fa 4, nessuno ti prende in considerazione. Sì. Se tu dici che 2 più 2 fa 32, maledetti comunisti che non... Sì, sì. beh, allora diventi una diva, e tutto è così. Cioè, se uno di più puttanate dice... Puttanate dice, più va sui giornali, sui media, eccetera. Ma qui noi più siamo... puttanate dice, più... ma è così. Lo so, ma infatti... È orribile, ma è così. È orribile. Io però, te lo dico la verità, a differenza di altri, ne sono perfettamente consapevole. Cioè cerco continuamente le puttanate, Giuseppe, e ne sono consapevole. Se tu non fossi consapevole, tu e Davide non foste consapevole, non avreste combinato Radio Belva. Era un'astuzia monumentale. Scusate, ma a proposito di cani, c'è la vicenda di Monti, ma è incredibile questa vicenda di Empi. Hai ragione. Cioè, volete più bene ai cani che agli uomini? Perché è incredibile, scusami. Ma allora la metto così, Giuseppe, tu sai che io ho votato per Monti. Assolutamente, più di me. E però lui è incapace di qualsiasi comunicazione generale. Sì. Finché lui stava sulla cattedra della Bocconi, sì, o sull'editoriale del Corriere della Sera, o persino sul seggio, sì, di presidente, di capo del governo, che gli, sì, era stato dato in un momento in cui l'Italia andava a picco, lui poi, quando invece si deve conquistare il suo spazio nella vita, che è grande e terribile, lui è di una... mediocrità? Addirittura? Beh, ma sai, tutta la roba del cane è di pazzesca mediocrità. Non c'è dubbio che se tu vai in televisione devi accettare, sì, le regole di questo. E poi sembrava averle accettate, perché se tu prendi quel cane... Sembrava, se tu lo prendi il cane, tu devi dire: ero felicissimo di avere Ferlo Draghi, certo, anziché rimproverare la conduttrice. Sì, poi ha fatto peggio il taccone del buso, si dice. Ma molto bene. Peggio di questa, perdonami Giuseppe, è che lui insulti uno che si è svenato per lui. Cioè, chi Casini parla? Aveva il 7%. Sì. È passato all'1,8, sì. Ed è passato all'1,8 svenandosi per lui. Ora lui, il suddetto eccellente ex capo del governo del disastro, che ha parato il disastro, sì, dal momento delle elezioni a ieri l'altro, nessuno si ricordava più di lui, perché non ha comunicativa, non ha vitalità, non vibra. È un uomo, non è così gelido come appare, evidente, sì, però la sua retorica è gelida. Però scusami, sì, un attimo, questa storia del, sì, cane è come avere detto: io questa roba qua, no, poi non si sa bene dove è finito, lo deve anche comunicare. Adesso, per carità, non dobbiamo esagerare, però sto cane che gli è stato dato, no, lui l'ha dato... il cane è totalmente irrilevante, Giuseppe. Cioè, che lui, che è stato capo del governo, e meno male che lo sia stato, sì, in quel momento, sì, che è andato, che è salito in politica, dove non ha comunicato nulla di vibrante, di speciale, eccetera, dove gli altri si sono, sì, svenati per lui, et Casini, et il povero Fini, che si è dileguato, e adesso se ne esce, sì, con delle espressioni ingiuriose e irrilevanti, perché nessuno viene commosso. Insomma, sei rimasto deluso un po'. Aspetta un attimo. Sì. Sì. 2. Ristorante Cracco, buonasera. Ah sì, buonasera, sono Parenzo. Volevo prenotare una cena per questa sera, per cortesia. No, la cosa importante è che non ci siano cani. Voi accettate i cani nel vostro ristorante? Non ho capito, signore. No, dico, accettate se porto un cane al ristorante? Sì, non c'è problema, se è tranquillo e non è... No, ma avete una sala anche per i cani apposta, immagino, oppure sta in mezzo a tutti gli altri? No, non abbiamo una sala apposta, ma comunque sono ben accetti i cani. Ma ci sono anche altri cani lì dentro o no? Perché non vorrei che trovarmi con altre persone, con altri tanti cani, questo è il punto. Altri tanti cani? No, signore, non ci sono. Dipende. Perché poi mi fare un canile, voglio andare al ristorante, cane. Non in canile. Vabbè, comunque grazie, se mai ripasso la richiamo dopo. Grazie, salve. Grazie. Salve. Parenza, hai beccato quello sbagliato. Hai beccato sbagliato. Un ristorante per Giampiero. Accettiamo volentieri i cani. Hai sentito, Giampiero? Cercava di fare lo stupido chiamando un ristorante che... Davide non cercava di fare lo stupido. È uno stupido. Ma quando parla io non me, voglio non, non, ho il diritto. Quando parla di altri, Davide è un caro amico. Ma Giampiero, ma io ho diritto di mangiare le tagliatelle al tartufo senza avere cani. Questo è un diritto, non è una roba. Ma non è un diritto, ma quale diritto? Chi vuole portare il cagnolino al ristorante? E io ho diritto di mangiare senza uno con la pancia grossa accanto. Che vuoi, che vuoi fare? No, ma per dire, ognuno può volere quello che vuole. I cani sono, fanno parte della... E c'è una saletta per i cani, come per i fumatori, uguale. Oppure lo lasci fuori dal ristorante. Giampiero, voglio che tu però ci parli in maniera definitiva del caso Bonef, perché tu sei stato protagonista di un'intervista a questa signora che è stata protagonista della puntata di Santoro, così discussa per un'intervista che lei ha fatto qualche anno fa. No, quando non era esattamente un'intervista, il mio direttore a Panorama, che era allora Carlo Rossella, sì, l'uomo che forse sta in cima alla scala del mio discredito, sì, mi chiamò e mi disse: Giampiero, esce adesso un libro da Mondadori, che non è mica uno scherzo, sì, di questa Michelle Bonief che si era fatta notare perché era stata accanto a Pippo Baudo in modo del tutto inutile, sì, in un Sanremo. Sì. Allora io dico, vediamo un po', leggo, sì, questo libro, una porcata inenarrabile, e chiamo Carlo e dico: Carlo, vabbè, però è una porcata, non si può parlare di un libraccio del genere. Sì, sì. E lui mi dice: Giampiero, dai, fai un pezzo. E allora io ho scritto un pezzo elegante, sì, è molto facile, ironico, per nulla aggressivo. E questo signore, che non oso definire, me lo ha cambiato in senso ruffianoide verso la Bonief e me lo ha comunicato a pezzo pubblicato. No, a pezzo pubblicato. Passeranno gli anni, i secoli, i millenni, io non me lo dimentico. Cioè Rossella questa fatta. Rossella, sì, Carlo Rossella, beh, ex direttore mio a Panorama, ex direttore di TG1, adesso indagato per il Ruby 2. Sì, ok? Per falsa testimonianza. Non occorre ricordare. Per falsa testimonianza. Capisco, sì, che è incazzato. No, ma no, io non ho detto niente. Beh, niente, però scusa, non ho detto niente. Che operazione ha fatto? Di ruffianeria nei confronti di Berlusconi, di qualcuno? No, di... in quel momento la questione era ancora più raffinata nel senso, sì, negativo del termine. La Bonief era molto protetta da Sacca, gran comandante della RAI, sì, o appariva molto protetta da Sacca, io poi non voglio, sì, entrare per nei carità, dettagli, lo sappiamo, e Rossella, il cui, diciamo, le public relations, Rossella è un buon giornalista individuale, sì, ma per lui l'essere un buon giornalista individuale è secondario rispetto alle public relations, alle amicizie, eccetera. Allora lui, per ruffianeria nei confronti di Sacca, sì, ha mutato il mio pezzo elegante ed ironico in una miserabile marchetta. Cioè è apparso un tuo articolo che era praticamente un elogio. Una miserabile marchetta. Beh, con la mia firma. Una cosa, porcaccio pazzo. Giuda. Vabbè. Ma me lo voglio trovare davanti. Io spero di averlo davanti, anche se penso sia difficile, perché io e lui non frequentiamo le stesse aree geografiche. E che, gli, faresti? Che gli faresti, scusa? Beh, fare termine barbaro. Fare termine barbaro. Stiamo parlando di gentiluomini. Ma non ci sarebbe bisogno di fare. Basterebbe guardarlo in faccia. Lui conosce il mio disprezzo per lui. Addirittura. Però scusa una cosa, ma la cosa che mi risulta strana, cioè, allora, questa vicenda, appena hai visto la Bonef da Santoro, al di là di quello che hai detto prima, cosa hai pensato di lei? Beh, perdonami Giuseppe, io sono venuto da una, mi sono formato in un'Italia politica in cui nessuno avrebbe osato dire che Mariano Rumor aveva certi gusti sessuali, certo. Nessuno avrebbe usato dire che Emilio Colombo lo stesso, sì. Nessuno osò dire ai suoi tempi, come era giusto, che Bettino Craxi, benché sposato, avesse qui a Roma un'attrice per cui stravedeva, sì. C'era per le vite private, diciamo, da qui, che forse era eccessivo, a passare al monologo di una eccetera su quella che è lesbica, non sì, è lesbica, sì, eccetera, eccetera, io rimango stupefatto. Io rimango stupefatto. Però è evidente che questa Bonnef prima era nelle grazie dell'entourage di Berlusconi, se non di Berlusconi stesso. Non c'è bisogno di dirlo. Appunto, e io non capisco adesso a che cosa miri, perché sa, non è che quella lì va in cerca della verità. Termine verità, lei non sa neppure. I quattrini, i quattrini. Cerca una vetrina. Io poi non dico nulla, ci saranno i tribunali, perché se è vero che la simpatica. Ma ha preso un premio a Venezia anche? Ha preso un premio a Venezia all'epoca, no? Datogli da Bondi. Ecco, brava. Quello è la vergogna pubblica, morale, non la vergogna pubblica e morale è che questa signora, per un filmaccio non da due lire, da mezza lira, sì, abbia preso un premio a Venezia con targa acquistata nel negozio di Rigattieri lì sotto, e con tre ministri che sono andati lì, e con 32 bulgari, ma lei che cos'è? Bulgara. Insomma, quello che è, 32 del suo paese, che sono venuti in aereo, non pagati, so da, noi. Pagati come no, da lei o dal contribuente italiano. Comunque, lei dice che li ha pagati lei. Sì, ma comunque in ogni caso ha preso anche dei soldi per finanziare il suo film. Abbiamo pagato. Sai, però onestamente, Giuseppe, i soldi per finanziare i film li prendono. Sì, vabbè, però certo, sì, certo. Non è l'unica. No, certo. Ha ragione. Va bene, è un'Italia miserevole. Siamo ha ragione. Siamo alle miserie quelle più pazzesche. Caro Giampiero, ti abbraccio, a presto. Saluti. Un abbraccio a te, ciao, David. Ciao. No, Davide non cercava di fare lo stupido, è uno stupido. La Zanzara. Vado a stare svegli per amare. Sei ancora a casa, Emo? Vado a stare svegli per soffrire. Ma che fastidio, che fatica a sopportare di notte le zanzare. Cucù, scusate se vi ho disturbati. Vado a stare svegli. Secondo Gianluca Buonanno della Lega Nord, beh, i Rom sono gentaglia. Lui invece è intellettuale. Poi noi dobbiamo andare in giro con la carta d'identità, i nostri figli devono essere tutti documentati, quelli possono fare quello che hanno voglia, ma i loro quelli figli che non vanno a scuola. Sono è gentaglia, sono per me è gentaglia, quella lì è gentaglia. Poi ci sono anche quelli per bene, ma sono molto pochi rispetto a quelli che invece sono qua solo per delinquere. Usano i bambini per l'elemosina, le donne, lavano i vetri, vanno a rompere le palle alla gente fuori dai supermercati. Chi sono questi qua? Vado a stare svegli per dove? È come dire, tutti i politici rubano. Siccome tutti i politici rubano, sono gentaglia, perché ad esempio usano le banche per farsi affari personali, corrompono per avere appalti, danno tangente. Allora tutti i politici sono criminali. È la stessa cosa che fate sui Rom. Ma non dire stupidaggini, uguale. Dai. Uguale. E dai. Dice Buonanno di essere convinto che ci siano bambini rapiti. Senti, ma Buonanno, ma chi è sto Buonanno? Mandiamo l'ispettore della polizia. Come fosse convinto che ci siano bambini rapiti. Ma chi sei? Questo è vero, chi sei? Lei sospetta che ci possa essere qualche bambino rapito nei campi Rom? Certamente sì, io sono convinto di questo, ma non per accusare Tizio piuttosto che Caio, perché come lei diceva prima, la sensazione nostra, credo del 95% degli italiani, forse anche di più, è che comunque questa gente, vivendo di cose particolari, di sotterfugi, di che non si capisce bene come facciano. Se tu dall'altipiano guardi il mare, morente che si schiava con gli schiavi. Di seguito sentirete Roberto Jonghi Lavarini, detto il barone nero, Roberto Jonghi Lavarini von Urnavas. Il barone Victor von Frankenstein. Stessa roba, eh? Von Frankenstein. La strage di via Rasella è stata infame. È un soldato tedesco che ha obbedito agli ordini superiori. E devo dire che la verità che che gli italiani sanno e bisogna ribadirlo e ricordarlo, che se non ci fosse stata l'infame strage comunista di Via Rasella non ci sarebbe stata nessuna rappresaglia e non ci sarebbe stata nessuna decimazione. Questa purtroppo è la tragica verità. Il barone von Urnavas. Giulio dalla provincia di Milano, buonasera. Pronto? Giulio, dica. Pronto, buonasera. Volevo fare una, condividere un apprezzamento musicale in riferimento alla sigla, perché non so se sarà presente, c'è da dire che è validamente, cioè musicalmente. Non ho capito, scusi, può alzare la voce innanzitutto, perché noi siamo le 20:20, siamo anche un po' stanchi dalla giornata, da una giornata che abbiamo passato, certo, piuttosto travagliata, lei non gliene fregherà niente. Se noi non sentiamo un po' di come dire, no, un po' di animo, un po' di volevo lei, fare un apprezzamento musicale, sì, in riferimento al jingle. Perché con un po' di esperienza musicale che ho, è valida come musicalmente. Vabbè, cosa è valida? Poi volevo chiedere se, per accontentarmi, qualora dovesse finire la menata sui fascisti, nazisti, Uniti d'Italia, che sembra un nuovo movimento ormai, se magari ogni tanto qualche altra canzone italiana, non so, l'inno, piuttosto che qualcosa di Verdi. Vabbè, Giulio, adesso vuoi dire, ci vuole dare delle indicazioni musicali, ma avanti, che ce frega a noi le 20:21? Stefano da Roma, grazie comunque. Stefano, dica. Stefano, pronto, dica. Eccomi. Vada, io poi non capisco quelli che fanno lo sciopero. Io dico con grandissimo rispetto di Roberto Giachetti, che è deputato del Partito Democratico, mio amico. Lo sciopero, tu fai lo sciopero. Lo farò, annuncio, nei prossimi giorni aderirò alla campagna di Giachetti contro il Porcellum e farò lo sciopero della fame. Ma per dire no a una legge vergogna. Ma veramente stai dicendo? Ma sei un cretino. Sei un cretino monumentale. È un carissimo amico nostro che fa una trasmissione in questa radio. Pierluigi Pardo. Che si chiama Pierluigi Pardo. Sì. Che voglio salutare. Pierluigi Pardo. E beh, allora? Che ha messo la sua storia. Errore. La sua storia. La sua storia. La sua storia. La sua faccia. La sua professionalità. Ma di che il suo talento. Il suo corpo. Che non è magro. Il signor Pardo è molto bello, ha a disposizione per un giorno, ha digiunato dicendo no Porcellum. Questa è civiltà, questa è gente per bene, uomini, donne, compagni e compagni che dicono no al Porcellum. E io dico Giachetti con te, la radio è con te, ma non è vero, la Zanzara ma non è con è vero, te, ma non è vero. Io aderirò allo sciopero. Vabbè, della fame a titolo personale, sciopero radicale, ma lo farò e lo comunicherò nelle prossime ma ore. Ma comunica quello che ti pare, ma chi se ne frega. No, io lo faccio veramente, ma chi se ne frega. Spero che anche Mercu, che è là dietro, io sono contrario, faccio lo sciopero della fame, ma non lo farà per niente. Deve farlo, crepa, è magro già, e anche tu dovresti farlo, ma io non ci penso totalmente, perché la gente purtroppo ci ascolta. Ma no, David, ti dispiacerebbe andare a fare in culo? Bravissimo, Giampiero, devo dire che è ottimo. Commento di Mughini. Però devo dire la verità. Lui e non Bibi. Faccio nessuno sciopero della fame, perché penso che fare uno sciopero della fame per cambiare una legge elettorale in cambio di non se so che cosa. Lo facciamo in tanti. È lo una ha fatto puttanata. Anche Pardo. Pardo ha messo il suo corpo. Posso dire chi la se ne frega? Sua faccia non a disposizione, perché dice no Porcellum, dice Pardo. Ma chi se ne frega di quello che fa Pardo? Detto con tutto rispetto. Chi se ne frega? Chi se ne frega? Me ne frego totalmente. Io non faccio lo sciopero della fame per abolire il Porcellum. Perché è un momento di cittadini. Se tutti noi diciamo no al Porcellum, ma possiamo devo cambiare dire no al Porcellum? Perché? Perché sono nominati dai politici. 5 persone nominano chi sta in Parlamento. Se non te ne frega nulla, vuol dire che sei insensibile alle questioni politiche. Oh, finalmente parliamo di cose diverse questa sera. Basta con la politica, basta con le strozzate, basta con i cani al ristorante. Parliamo soprattutto dai. Massimo Ceccherini, buonasera. Massimo. Sento nulla. Come? Massimo? Massimo? Pronto? Mi senti Massimo? Non si sente. Ma da so. Dove sei tu chiami? Da una spelonca? No, io ho fatto la clinica dove sto, clinica mentale. Ma come clinica mentale, Massimo? Io sono in clinica. Ma come sei in clinica, scusa? È chiaro, forse hai sentito le vostre canzoni, mi sono ammalato. Ma questo pure, devo dire la verità, non hai tutto. Io poi voglio parlare di politica, perché io politica no? No, io anch'io. E parliamo di politica, quando vedi la Santanchè in televisione, che effetto ti fa, Massimo Ceccherini? Virgola. Solo un vi sento. Adesso cerchiamo di rimediare, mettetemi in linea. No, ben... ma sono io, perché io sono in una montagna, un pigliabene. Ma scusa, ma non devi seguire la Fiorentina? Che c'entra, c'è la televisione. Ma dove stai in montagna? Ma cosa fai in montagna? Sulla Miata, dove sei? Sono in clinica, come l'ho detto. In clinica, ma sta Fiorentina qua? Io non posso mica, io a me mi danno permessini per uscire. Ma perché sei pazzo? Che è successo? Perché è in clinica? Non sto mica tanto bene. No, perché non, tu non stai bene, quello è noto da tempo. Non lo sapevate. No, lo sappiamo un po', lo sappiamo. Beh, vuoi parlare perché di politica? Uno normale, no? No, normale questo non... sicuramente no. Anche noi però non siamo normali, ti posso assicurare. Ma infatti, dovreste venire anche voi qua, vi farebbe mia male in questa clinichetta. Che clinica è quella? Sempre a parlare di politici. Ma io voglio sapere, quando tu vedi, qua le poche volte che vedi la televisione, vedi la signora Santanchè, a cosa pensi? Le poche volte. La vedi sempre la televisione? Davanti alla televisione dalla mattina e anche tutta la notte. E i talk show li vedi, i talk show politici? Vedo tutto. Che effetto no, ti però fa? Però politici ma non ci sono nessuno più, sono malo proprio tutti i coglioni, però beh, mi diverto. Ma la Santanchè che effetto ti fa? La Santanchè non so se posso dirle queste cose. Ma le puoi dire qui alla Zanzara, si può dire tutto. Siamo la Santanchè, guarda. Ti fa sangue? Allora, la Santanchè, con la Santanchè io vorrei fare. No, io no, ma non pensate che dico cose brutte. No. Io dico cose belle. Dimmi. La Santanchè mi piacerebbe, il mio sogno sarebbe stretto. Come? Con lei abbracciato, però è solo abbracciato, non senza fare niente. A letto, con sì. Le gambine, sai, intrecciate. Sì. A guardare un bel film di 4 ore, tipo sì. Che c'è un film che dura 4 Via col vento, vai. Via col vento, sì. Un via col vento abbracciato con le coperte chiuse e sì. Scureggiare a tutto no. Fuoco, ma del 200 scureggere dopo la roba così, e costringerla a pigliarle tutte. Ma che beh, scusa, però è ma che porcheria assoluta, no, ma perché no? Ma fa schifo, ma c'è che ride. Con il freddo. Ma c'è che ride, ma la devono trattenere in clinica, là. Ma è un'immagine meravigliosa. Che cazzo vuoi, scusa? Ma devono è un'immagine meravigliosa. Ma fa schifo, ma dai. È poetica. Ma poesia un cavolo, ma c'è che ride. Ma voglio dire, ma lei che è stato vicino al signor Pieraccioni, che è così delicato, mi si ambienta con quell'arietta ma, calda. Ma che schifo. Ma dopo sta bene. Ma lei è vomitevole. Ma che vomitevole? È un'immagine meravigliosa. A me mi pareva una bella cosa da dire. Ma è un'immagine meravigliosa, cioè vogliamo ripeterla per quelli che non abbiano capito. Ecco, sempre su Radio 24. Un po' devo rientrare. C'è la Fiorentina. Mi chiudono. No, vabbè, c'è la Fiorentina alle 20:45. No, tra l'altro sono andato anche io, insegno anche catechismo, quindi adesso. No, beh, sì, che tu insegni catechismo, è solo questa qua mi sembra veramente una cosa un po' complicata, è un po' difficile da credere. Allora, l'immagine è questa. Signor Ceccherini, avvolto sotto le coperte, con le gambe intrecciate, a vedere un film di 4 ore, probabilmente Via col vento, un altro film lungo comunque, che a un certo punto, come dire, come emana dei peti, scorreggia in sostanza. Sì, ma scureggere è poetico, le mie è una roba. No, ma perché? Ma di quelle proprio belle poi, anche quelle silenziose, che sono quelle più. Ma scusa, c'è qualche. Che si appiccicano e non vanno via alla coperta, capito? Quindi addirittura quelle stupende, quelle sono stupende. Ogni tanto anche costringere anche a mettere un po' la testa sotto. Ma è una cosa raccapricciante. Scusa un attimo, Massimo. Secondo me so. No, dai, ma che era capricciante. Però per par condicio invece, cosa ti ispira la signora Bindi? No, signora Bindi. Signora Bindi? Sì, che è delle tue parti, insomma. Bindi. Bravissimo. Signora Bindi, ti dirò, perché a me quelle un po' in carne. Sì, non ti dispiacciono, eh? No, io non so se lo posso dire, ma non vorrei capire poi dopo. No, lo puoi dire, lo puoi dire, anche qua, anche in questo caso lo puoi dire. In questo caso, va, salto. Vai. Quelle in carne cosa ti ispirano? Non lo posso dire. No, lo puoi dire, no? Dillo come ti viene, dillo come ti viene. Mi piacerebbe vederla, deve essere molto rosa, deve essere rosa la Bindi. Cioè, nuda dici, rosa? Deve essere bianca, parecchio bianca. Ti piace questa cosa, bianca un e... Bianco latte, bianco latte. Un baby maialino, un porcello. E tu che ti piace questa cosa qua, questa immagine? Non mi costringere a dire cose, se io sono un crimine apposta per guarire... Lo so, ho capito, ma noi ti vogliamo fare tornare i demoni. Un attimo solo che c'è la borsa, poi torniamo con i demoni di Massimo Ceccherini. Meraviglioso, devo dire, con l'immagine che ci ha fatto della Santa Chebe. Poesia pura proprio. La Zanzara. In collegamento dall'ospedale psichiatrico, Massimo Ceccherini, attore che fra poco... E attore, sì. Vabbè, attore. Ma quello sono, altro è attore. attore, sono trullo. E che sei? Poi ormai io non fai più nulla, ho smesso, non mi ha mai più nessuno. Quando ti hanno cacciato dall'Isola dei Famosi non fai più niente? No, l'Isola dei Famosi io ci vorrebbe tornarci a me. Vabbè, perché, però... Perché mi stavo bene di salute, capito? All'epoca sì. L'hai fatta grossa lì. Cioè, senti, ma in questo programma chi mi parla? Sempre ma di tutto, di politica, di film. Poi, 10 minuti non mi fai sentire la borsa. Ma deve essere una roba proprio veramente... programma un po' di merda questo video. Beh, devo dire la verità che sulla borsa posso anche darti ragione. No, io me lo domando, ma non, perché, non lo so. Ma non perché la borsa è una cosa di merda, perché effettivamente... Ma la borsa, che... proprio il programma vostro, voi due. Noi due siamo una merda, sì, programma di merda. Ecco, sì. Beh, più uno dell'altro, diciamo. Più uno dell'altro. Io non vi seguo perché non sento la radio, però... Certo. Però siamo un programma molto ascoltato, come tutti i programmi molto ascoltati sono dei programmi un po' di merda, diciamo la verità. Ma arriviamo anche in senso un po'. Sì, assolutamente. Ma scusa, ma per mia impresa, io l'avevo chiesto, No, non è che avevo detto. Per carità, ma scusa, che era di merda. Avevo chiesto se per caso era un programma un po' di merda, se tu mi dici se perché lo dici, non sì, io. Sì, per carità. Sì. Tu a che ora ti alzi la mattina, scusami, Massimo? A mezzogiorno. Come? La mattina a che ora ti alzi? No, la mattina io torno dal night. Torni dal night, cioè praticamente la mattina non ti alzi. Infatti, il mio sogno era e non era fare film con Pieraccioni o con. Sì. Il mio sogno era condurre Uno Mattina, perché era arrivato preciso. Cioè. Non me lo fanno fare. Beh, strano, perché invece ne avresti, dopo quello che hai raccontato su questa cosa della Santa, degli argomenti molto puliti. Ve ne potrei narrare un altro. Ecco, questo è un consiglio che do un po' a voi, anche a tutti gli uomini. Cioè? Molto interessante che voi ascoltiate bene. Allora, io vi do. Sì. Cioè, la cosa questa potrebbe essere una bomba, riscatenare una bomba, perché io credo che tutti noi sogniamo una cosa che solo Rocco ha, no? Sì. Cioè, una cosa a quei livelli lì. Ecco, io vi do la ricetta per ingrossare il vostro membro. E qual è? No, e ve la do così, a babbo volta, a gratis. Daccela gratis, qual è la ricetta? Perché, no, fammi finire, se mi interrompi... No, allora, anche ti interrompo. Perché dicevo, vedi, adesso che cazzo stavo dicendo? Non lo ricordo più. Scusate, ho detto una parolaccia. Perché vuoi darci la ricetta per ingrossare? No, perché il Viagra è per farlo inturgidire, ma però per ingrandirlo, sì. io brevetto questa invenzione che ho collaudato personalmente e consiglio di farlo a tutti. Dici un po'. La volete sapere? Come no? La vogliamo sapere assolutamente. No. Ecco, allora, attenti bene, voi andate dove ci sono... Gli alveari delle api, no? Sì, assolutamente. Il membro dentro un alveare, sì. Lo tenete a 5 minuti, sì. Le api fanno il suo lavorino e quando lo tirate fuori è più grosso. Così io proprio. Credo che sia brucia un pochino, io credo che non debba uscire, però si ingrandisce. Io credo che veramente... per ingrandirsi si ingrandisce, però devo dire la verità, Massimo, si ingrandisce tanto, cioè, Laura Marchesi ride come una, però effettivamente qui siamo nel campo della clinica psichiatrica, che si capisce perché tu sei ricoverato in clinica, ma è proprio malato del cervello. Ma io l'ho detto subito all'inizio. No, infatti, scusa, ma uno come fa la radio della Confindustria a dire di prendere il membro e metterlo dentro un alveare? È collegato dalla clinica psichiatrica. Ecco. Ma questa è una cosa che può rivoluzionare tutto. E perché i politici litigano sempre? Perché se è tutto lì, è perché ce l'hanno piccinino, allora perché non trombano, invidiosi. Ma se ognuno, vedi com'è bello, sano e tranquillo Rocco, perché Rocco c'ha la sberbola. E allora se anche voi, se questa dovrebbe essere una medicina del futuro. Non c'è dubbio. Se ognuno si sente troppo più sicuro quando sa di avere la sberbola grossa. Quello è vero, che dà sicurezza, dà sicurezza. Senti, ma è vero che tu conosci Renzi da quando era piccolo? Ma per esempio, come ce l'avrà coso Brunetta? Brunetta ci dovrebbe entrare tutto lui dentro l'alveare, no? E così riesce più grosso. Non si può. Questo è praticamente scorretto. Questo... cose belle, no. Non lo so, magari... Questa è buona, questa è dottore, non si può. Arrivo, altri 2 minuti. Questa dalla clinica psichiatrica è buona. Scusate. Sì, no, preoccupi, signor Ceccherini. Ma il dottore che mi dice che mi chiudano, mi devono... effettivamente. Senti una cosa, ma è vero che tu conoscevi Renzi da quando era piccolo? No, non solo conoscevo, ma io gli facevo gli scherzi anche un po' cattivelli, lo frustavamo a culo nudo con l'ortica. Ma no, dai, questo non è vero, Massimo, dai. Non è vero, domandare a Renzi. Cioè, che facevate con Renzi? Che tipo era quando era ragazzino? No, ma ci si faceva gli scherzi. Una volta, per esempio, io gli dissi, lo sai se è che... Ora però non so se posso dirla questa cosa. Un po' spinta. Vai. È sempre una cosa bella, però purtroppo è uno scherzo, invece io pensavo fosse vera. Cioè? All'inizio della feci. Cioè, se te prendi un fico, sì. Certo, se non vi avevo detto era uno scherzo, ve la potevate fare. No, per carità. Perché una cosa è si gode come un bare, cioè uguale, sì. Cioè me lo disse a me lui. Sì. Lui mi disse, guarda, se te prendi un fico e te lo spremi, sì, sopra, sì, sul grande, diciamo, sì, si gode come... Ma allora, a prendere queste fighe, vabbè, ma ero un ragazzino. E allora? Me lo sono spremuto. E allora che è successo? Cazzo, avevo un acido, Non stavo male di nulla, mi toccavo metterlo nel lavandino, tutta una roba. No, però adesso, Massimo, a parte questo, io dico... Massimo, io mi chiamo Massimo. Vabbè, ma come ti chiami allora, scusa? Come mi chiamo io? Ah, dottor Ceccherini, scusa un attimo. Non lo ricordo più. Dottor Ceccherini. No, lo chiede al dottore perché... Sì, appunto. Panariello, io sono Panariello. Scusate, ma veramente adesso, seriamente, tu hai conosciuto Renzi da ragazzino? Che tipo era? Da piccolo? È quello che vedi, era un ragazzo simpatico, in forma, sempre in forma. Si è inaugurato ora la tranvia a Carlo Monni a Firenze. Sei andato? Non sono andato. Sei andato? Che bombo all'inaugurazione di Carlo Monni. Appunto, sei andato. Sono andato. A portare il dottore. Vabbè, il dottore. Senti, però tu che guardi la televisione, hai goduto quando Maradona ha fatto il gesto dell'ombrella Equitalia? Sì, immagino di sì. Hai goduto come un pazzo. Oddio, non so rispondere a questa domanda. Troppo difficile, Troppo difficile. Troppo complicato. No, perché anch'io c'ho qualche cosa con l'Equitalia. Appunto, dico. Che c'hai con l'Equitalia? Te perseguito pure te. Che ci avrò? Una storia d'amore? C'ho da pagare. Quanto c'hai da pagare? Parecchio. Quello che non ho. Perché io sto tentando di brevettare nuove invenzioni. Per esempio, per la prossima puntata parlerei dell'ano. Non ci sarà una prossima puntata. Adesso vi devo salutare perché il dottore mi chiede come si chiama. Ciao caro, a presto. Ciao. Allora andiamo a Onofrio da Bologna. Buonasera, Onofrio. Ciao. Niente, volevo rispondere a quell'esagitato di Parenza che stavolta ha proprio toppato. Io il cane mio sono 11 anni che lo porto in giro. In treno, magari anche dove mangio, ed è educato bene. Ma non è quello il problema. Non rompe quello non vuole nessuno. I cani nel ristorante. Io Parenzo, ho diritto, no, come non voglio che si fumi nei ristoranti. Ci sono le sale apposta per i fumatori. Sono stato un fumatore. Il mio cane voglio sale dovrebbe... apposta per chi va col cane, non chiedo il la luna. Il mio cane a te non dà assolutamente fastidio, altrimenti a me dovrebbero dar fastidio le persone che appunto brutte, potresti dar fastidio tu e chiedere parla per te intanto, parla per te. No, potrei, capito, a me parla non danno fastidio né le persone né gli animali. No, io parlo per me, infatti sono più tollerante, però è anche vero che non tutti i cani sono educati bene, non tutti i proprietari sono in grado di far stare i cani appunto buoni. Lei si immagina cosa può succedere se per caso in un ristorante che ha 60 coperti si presentano 60 persone e ognuna di queste ha il suo cagnolino? Il mio cane non abbaierebbe gli altri purtroppo so che lo farebbero, questo è vero, che non e allora di che parliamo? Stanze per i fumatori, stanze per chi ha i cani? Una selezione al locale, se il cane è esagitato va fuori, se il cane invece è educato, stanze riservate ai cani, stanze riservate ai cani e ai padroni dei cani, come per il fumo, uguale. Non si riservano i posti, non si riservano. Come no? Se uno vuole fumare al ristorante, va nella sala destinata ai fumatori, non è che fuma ho in tutta. Ho capito, perché allora? Il tuo fumo mi dà fastidio, ma il mio cane non ti dà fastidio. Ma io non fumo più, peraltro. Va bene, Martina da Teramo, buonasera Martina. Buonasera, solo un commento in merito alla frase della Santanchè. Quale frase? Secondo cui la parità inizia già dalla culla, dovrebbe iniziare. Allora io vorrei chiedere alla Santanchè, si rende conto lei che forse non è la persona più adatta per pronunciare una frase simile? Lei che da sposata ha rinunciato al suo cognome e ha chiesto di farlo anche da divorziata, quantomeno la Lario sta utilizzando un privilegio, sta usufruendo di un privilegio che le spetta per legge, non è una richiesta che ha fatto proposito, come lei, di continuare a utilizzare il cognome del marito. Ma chi se ne frega? Vabbè, ma evidentemente ha voluto continuare a utilizzare il nome del marito. Sì, ok, ma cioè, lei no, dice la... in contrasto con quello che pensa degli uomini. Ma tra l'altro è anche poco intelligente, perché lo va a dire in una trasmissione in cui più di un mese fa, non più di un mese fa, è stato intervistato il marito per più di mezz'ora, che ha sottolineato appunto questo aspetto, anche lui mettendo in luce, con molto rispetto tra l'altro, l'incoerenza della moglie che si professa grande femminista e poi nelle azioni in realtà non dimostra di esserlo altrettanto. Ho capito, quindi... grazie. Rodolfo da Brescia, buonasera. Oh, buonasera a voi. Dica. Buonasera a voi. Io volevo fare due annotazioni a Parenzo. La prima, sì, quella che mi è sembrato un po' esagerato, quella nei riguardi dei cani al ristorante, perché non so se lui si è mai trovato in un ristorante dove invece festeggiano il compleanno bambini di 7, 8, 10 anni, lasciati completamente invece. Brava, hai ragione, hai ragione. A urlare come pazzi, a dar noia ai camerieri e a giocare con i giochini. Vabbè, la maleducazione è maleducazione, che c'entra? Ecco, io per esempio ho un cane che quando entro in un ristorante lo tengo nel suo cuscinetto, non si muove di lì e non ha mai disturbato nessuno. Ma insomma, ma perché le dispiace così di andare a mangiare in una sala destinata a chi ha i cani? Non ho mica capito. No, ma a me non dispiace la sala destinata ai cani. Però mi fa specie che questa osservazione venga proprio da lei, che è un fautore della libertà assoluta. Ma certo, ma che c'entra? Mica sono un cobaio, ho avuto anch'io un cane. Ma ha avuto anch'io un cane che si chiamava Cocchi, un cocker. L'ho avuto anch'io per tanti anni, un cane. L'ho avuto. Dico che siccome c'è il rispetto di tutti, siccome sono stato un fumatore, non pretendevo di fumare al ristorante, ed è giusto che hanno fatto le sale apposta per i fumatori, chi c'ha il cane si porta il cane, c'è la saletta apposta per i padroni con il cane. Chiederò mica molto. No? Che si potrebbe anche in altro modo dire che si fa una sala per tutti quelli che hanno i bambini e che non riescono a gestire. Ma è diverso, così, come si fa a non capire che è diverso? Io ero in un ristorante venendo da Roma domenica a pranzo, che dopo il primo sono dovuto uscire perché c'erano due coppie con quattro bambini, sì, che non si riusciva non a discorrere, a fare niente. Ma gli animali, cosa c'entra? Gli animali con i bambini, basta, ma basta, cosa mi avete scocciato, mi avete scocciato. Mauro dalla provincia di Udine, dai. Ciao, buonasera. Ciao, volevo dimmi, dirsi grazie di avermi fatto sentire il Ceccherini, che mi ha fatto, sono ancora che piango. No, una cosa, volevo solo dire che sono indignato da quella frase che ha detto quel slavo comunista lì di Parenzo. Slavo comunista, che c'entra Slavo? Perché il mio questo qui, siccome poverino, così. Parenzo, scusa, il cognome Parenzo è un cognome istriano. È una ridente isola, località, si chiama Poreč. Allora lui dice istriano perché pensa che sia istriano, siccome è ignorante, cioè non ignora, può, non sa. D'accordo, invece sai tutto solo nel tu, merito comunque, ha detto una stupidaggine lei nel merito, siccome parla di me nel merito ha detto una stupidaggine. Sono indignato. Beh, vai a vedere l'araldica, probabilmente proveniente da Parenzo. È vero, certo che provengo da Parenzo, ma sono italiano. Ha paragonato noi italiani, cioè noi rubiamo come gli zingari. Un attimo. Pronto? Diego? Sì. Volpe, siamo noi, la Zanzara, sì. Come stai? Oh, sto benissimo, stavo bevendo un ottimo Cabernet Sauvignon. Beh, immagino. Diego Volpe Pasini, mancava. Già fondatore dell'esercito di Silvio, mancava. Cosa devi dire a Parenzo, Diego? No, mancava nella galleria dei mostri. Ah, quella merdaccia di Parenzo, no, vorrei dirgli mancava. Che siccome lui rompe i maroni a tutti, compreso i poveri come Maradona, perché non va a fare una bella indagine fiscale nei campi rom, dove si trova a suo agio, ecco, in mezzo ai suoi pari, ecco, e fare una bella verifica, ecco, sullo stato patrimoniale e del, diciamo così, economico dei residenti. Ecco, questo creerebbe un minimo di, diciamo così, mancava il delirio delle 20:49, mancava il delirio delle 20:49. Sì, sai, l'unica cosa giusta mancava il fondatore dell'esercito di Silvio, mancava, certo. Ma sai che l'unica cosa giusta che tu hai detto, ma sei poco aggressivo, mancava, perché con quelli che sono un po' potenti sei un lecchino fottuto. Mancava, a Vattimo quando ha detto quelle cose perché è potente, dovevi urlargli tutto quello che pensi, perché è potente, perché no, volevo tirargli fuori, volevo, tanto non devo spiegare a te le tecniche, volevo tirargli fuori fino in fondo il suo antisemitismo, quindi siccome l'unico modo era quello di farlo parlare, che lo tiri fuori, è palese, lo dice sempre, volevo, non è una novità, dopodiché l'ho attaccato, ma non è sicuramente non è un potente, sicuramente non è un Pulitzer, per questo voglio dire, a me non daranno il Pulitzer, a te non daranno il seggio che hai provato a cercare per anni pietendolo, fondando addirittura una roba che più lecca culo di quello non c'è, che l'esercito di Silvio tanto volevi fare con la moglie fatta candidare con la Lega, cioè voglio dire, non è che sei ma vedi la differenza, ma perché lo devi collegare negli ultimi, ma perché devi chiamare Volpe, cioè già abbiamo fatto già Ceccherini, già quella, e mancava come ciliegina sulla torta Diego Volpe Pasini. L'unica parte incomprensibile è perché Cruciani ti consente di diventare famoso, perché Cruciani lo è di suo, tu sei un ti ha ucciso, capisci? Ti ha ammazzato assolutamente. Volpe Pasini appoggia Cruciani. Finita una carriera di 30 anni. Una roba pazzesca. L'esercito di Silvio. Tu mi hai preso per il culo per la puntata di Sgarbi, che almeno abbia fatto qualcosa di più. Bella il tuo inizio. Non era pagato dal servizio pubblico. Non era pagato dal servizio pubblico. Asino. Asino. Pagato dal servizio pubblico eravate. Servizio pubblico. Dal servizio pubblico era pagato. Dal servizio pubblico. Dal servizio pubblico intanto il latino però devi cominciare. Va bene ragazzi, purtroppo vi devo lasciare questa grande disfida che sicuramente rinnoveremo tra Diego Volpe Pasini e David Parenzo. Ci sentiamo domani 18 in diretta. 30, in diretta da Milano. Tutti i particolari sul sito di Radio 24. Andiamo live in un luogo segretissimo. Ma che segreto? Segretissimo. Andate sul sito e guardate. Ma vengono a menarci, se no. Sì, Milano in diretta domani, accorrete numerosi. Senti, ma in questo programma chi vuol parlare? Sempre di politica? Che 10 minuti non mi fai sentire la borsa? Ma deve essere una roba proprio veramente. Un programma un po' di merda, questo qui deve essere. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, quando ritorno a casa. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. David, ti dispiacerebbe andare a fare in culo? Radio 24. La passione si sente.